E buonasera e bentornati tutti e tutte, amici e amiche della vostra radio di calcio preferita, la vostra trasmissione di calcio preferita. Qui dai microfoni di Radio Pirata 38 sta per iniziare la nuova immancabile puntata di Passione Sferica, il programma di calcio giovanile. E quindi saluto qui da Mummia, Fischiotto e Robertone. Vai con la sigla! Eccoci qui dopo la nostra fantastica sigla, e ecco qui per iniziare la nuova puntata di Passione Sferica. Proprio questo fine settimana si sono conclusi svariati campionati delle massime serie di tante leghe in Europa, quindi stiamo parlando della Serie A, della Liga. Potremmo dirvi i risultati, potremmo dirvi punteggi, chi ha vinto, chi ha perso, però non lo faremo. Per quale motivo non lo faremo? Perché non siamo interessati a questo discorso. Abbiamo discorsi ben più importanti da portare avanti. Voi amici ascoltatori sarete curiosissimi di sentire i nostri commenti riguardo le fasi dei playoff del Lievi Elite, che sarà il primo argomento che andremo a trattare quest'oggi, subito dopo avervi ricordato che questo venerdì ci sarà il concerto a sostegno di Radio Pirata 38. Se non venite siete scrausi, dovete venire per forza, la vostra radio preferita va sostenuta. Quindi venerdì sera, venerdì 21 maggio, qui a Laurentino 38 Squad, concerto degli Etrusca Jazz e il Nano Fit Jungle Beat. non potete mancare. Dopodiché vi annunceremo che anche quest'oggi Lollo, anche detto il Fracico, ci ha promesso di venire qui in trasmissione per la sua intervista. Vedremo se abbiamo visto che c'è, quindi riusciremo poi a prenderlo e portarlo su anche di prepotenza, quindi non vi preoccupate. Il nostro già l'abbiamo ricoperto di insulti in questa settimana, anche un po' di botte oltre agli insulti, eh. Lo faremo anche in questo caso. Ok, quindi passiamo al primo argomento di quest'oggi. Come vi avevo le due partite delle semifinali dei playoff che hanno visto in campo l'Axa contro la Nuova Tor Tre Teste e l'Ostia Mare contro il Vigor Percuna. Dicevamo, come al solito qualche problema tecnico. Come vi stavo dicendo, allora, le semifinali hanno visto davanti Axa Nuova Tor Tre Teste finita per 0-1, mentre l'Ostia Mare perde in casa contro un Vigor per Conti che continua a strabiliare in quest'anno. Ma prima di entrare nel dettaglio mettiamo uno stacchetto musicale. Barba O'Reilly, Robertone, il nostro tecnico audio, ci sta già preparando e vai con The Who, Baba O'Reilly. Don't eccoci qui. Allora, come dicevamo, andremo a parlare come primo argomento di una delle prime due semifinali del campionato Allievi Elite, semifinali dei playoff che ha visto al campo Longarina dell'AXA, appunto l'AXA, misurarsi contro la Nuova Tor Tre Teste. Gara molto equilibrata per gran parte fino a un minuto chiave, 35esimo del primo tempo, dove un episodio, a volte anche gli episodi nel calcio decidono partite importanti, un episodio nel quale il portiere dell'AXA, Cagliazzi, c'è il nome, dice tutto, Cagliazzi andava a giudicare un pallone deviato dal colpo di testa di Roberti del Nuova Tor Tre Teste, pensava che fosse troppo alto, mentre invece il pallone abbiamo visto prima rimbalzare a terra e poi infilarsi beffardamente sotto l'incrocio dei pali. Così la Nuova Tor Tre Teste si è portata sul vantaggio del 1-0, anzi dello 0-1, in quanto, come detto prima, si giocava a Longarina dell'AXA. La partita finisce così, finisce sullo 0-1 per la Nuova Tor Tre Teste, punteggio pesantissimo in chiave della partita di ritorno, con l'AXA andrà a giocare fuori casa una partita molto ospita, perché come tutti ben sapete a questo punto, dopo aver vinto in trasferta per 1-0, a Nuova Tor Tre Teste basta un qualsiasi pareggio, qualsiasi pareggio, anche uno 0-0, per passare così alla finale. Non è stata una gara troppo entusiasmante, a parte quel momento, non è stata nemmeno una gara molto scorretta né dura, tutto si è svolto al meglio. Il signor Coppitelli, il signor Sparago di Aprilia, l'arbitro designato appunto per questa partita, non ha avuto un po' così grande da fare, e quindi non ci resta che attendere i prossimi 80 minuti per vedere come si svolgerà, come andrà a finire questa doppia sfida tra AXA e Nuova Tor Tre Teste. Certo, sono molto dispiaciuti in casa dell'AXA, specialmente l'allenatore Giuliani, dopo lo splendido lavoro fatto per tutto quest'anno durante il campionato e anche durante le fasi dei playoff, veder buttato via tutto per un errore di Cagliazzi, che poi, come ovvio, gli errori dei portieri risaltano di più, perché l'errore loro è fatale, però Cagliazzi, ma che errore del portiere decide la partita, quindi la partita, e il gol è quando palla entra. E quindi niente, come dicevamo, molto dispiaciuti, ma ancora non è finita. Da qui alla finale ci sono altri 80 minuti a disposizione. Ringraziamo, scusate, intanto il nostro staff per averci portato dell'acqua, facciamo una cosa secca. Come dicevamo, ci sono altri 80 minuti per poter ribaltare questo risultato. È vero, si andrà a giocare al campo del Nuova Tor Tre Teste, un campo ostico dove non è facile vincere, ma perché no, l'AXA ci può provare. Considerato che è stata l'unica partita in cui non ha segnato gol sia in tutto il campionato ma anche nella fase finale. Quindi niente, dopo avervi fatto ascoltare un'altra canzone, passerò il microfono a Fischiotto, che vi andrà a commentare la partita, l'altra semifinale di andata giocata tra Ostia Mare e Vigor per Conti. E vai con da Sarsfond San Paoli. We'll be right back. Rieccoci qui a Passione Sferica, dal vostro Pischiotto, adesso che commenterà la partita che c'è stata tra l'Ostia Mare e il Vigor Perconti. Una partita che è finita 2-1 per l'Ostia Mare. Scusate, il Vigor Perconti, il mio collega Bumbia mi ha fatto rinsavire. La semifinale d'andata se la giudica all'ultimo secondo il Vigor Perconti ai danni dell'Ostia Mare in gran forma. Allora, i marcatori della partita sono stati Rustic per il Vigor Perconti e Marzi per l'Ostia Mare. La Vigor Perconti ha vinto con l'Ostia Mare molto in forma, l'abbiamo vista in grande spolvero, veramente giocare bene, quindi siamo anche un po' rattristati per come andrà a finire la partita, in quanto a nostro giudizio non doveva finire proprio con questo risultato. Diciamo che la Vigor Perconti è stata molto fortunata, perché le azioni più importanti le ha fatte l'Ostia Mare, senza però riuscire a concretizzare la partita e a fare gol determinanti. Questo purtroppo capita nel calcio, è una cosa che capita molto spesso, e i ragazzi sanno bene anche loro che può capitare di fare una partita alla grande e poi andare a perderla per qualche occasione mancata. Per dare qualche informazione in più per chi non l'avesse vista e chi non l'avesse seguita, ci sono state variazioni. Per esempio, all'inizio, subito al terzo minuto del primo tempo, l'Ostia Mare si rende pericolosissima con Mazzotti che deposita a centrare una palla invitante che attraversa tutto lo specchio della porta in direzione di Castro, che non arriva però alla palla, quindi non riesce a concludere la sua azione fantastica. Tutto questo per pochi millimetri, perché la palla non la prende proprio per niente, diciamo. Poi al 22esimo del secondo tempo c'è Ursic che mette la palla in rete per la Vigor Perconti, ma i ragazzi dell'Ostia Mare non si danno per vinti, hanno una reazione e riescono comunque poi al 24esimo del secondo tempo subito a recuperare con un pareggio questa partita. Solamente che poi proprio al 43esimo del secondo tempo il solito Ursic riesce a fare di nuovo gol all'Ostia Mare, che perde così la partita. Adesso vi do la situazione dei playoff. Abbiamo, vi ripeto un po' i risultati che ci sono stati in questa settimana e le partite che ci dovranno essere poi per quanto riguarda la situazione playoff. Allora, abbiamo avuto l'Ostia Mare contro il Delle Vittorie che vince per 2-0 in casa, poi perde per 1-0 fuori casa, ma questa sconfitta non determina un'eliminazione per l'Ostia Mare, quindi passa l'Ostia Mare e il Delle Vittorie va a casa. Il Savio con l'Axa che pareggiano per 2-2 in casa del Savio, e poi alla partita di ritorno l'Axa domina la partita per 2-0. Quindi abbiamo le partite che abbiamo appena adesso spiegato un po' come sono andate, che sono, le ridico: Ostia Mare Vigor Perconti 1-2 e Axa 9-3 test 0-1. Adesso ci saranno le gare di ritorno che si giocheranno il 19 maggio del 2010 alle ore 15. Avremo Vigor Perconti contro l'Ostia Mare in casa del Vigor Perconti e la nuova Torte Test contro l'Axa in casa della nuova Torte Test. La finale si giocherà poi il 23 maggio del 2010, poi vi faremo sapere anche l'orario di queste partite, almeno saprete in qualche modo, se avete il modo ovviamente di aggiungere i ragazzi che giocano queste partite o comunque verso i vostri mezzi di comunicazione. Adesso passo la palla al mio collega che continuerà il discorso per quanto riguarda gli Aglia Elite. Mandiamo un'altra... Allora, prima di mandare un'altra canzone, era così per riassumere, quindi abbiamo visto queste due semifinali, entrambe così finite con episodi, vediamo sia per l'Axa con la distrazione del portiere, mentre per il Vigor per Conti che porta a casa il risultato quasi allo scadere. E quasi immediatamente abbiamo. Dopo aver subito per tutta la dopo aver subito a come si dice il pallone rotondo, e quindi ora prima di dare un po' di spazio alle finali playout, sempre per di NBA Elite, DJ Fischiotto vi manda un'altra traccia. Che è la traccia del ragazzo che praticamente sarà qui per il concerto del 21 maggio a Laurentino, e sentirete anche qui da noi quando sarete presenti al nostro primo concerto. In un viaggio mentale, la palla sullo sfalto batte come il mio cuore. Un giorno io credevo di essere migliore, ma oggi è la questione di salvare l'onore. Mi talento mi andrà a vendere, la luce ancora non può vincere. Le scarpe sono il chiodo, ma in ogni modo sul campo io ci torno e lavoro molto sodo. Godo, gioco, perdo aspettandolo, in uno contro uno che mi vedi col binocolo. La mia mano come un tentacolo, in campo io ti parlo più di un oracolo. La magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo in un altro contesto. I danni ti confermano questo, la magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo in un altro contesto. Produzioni spiedo italiano espresso. Alenzo linee nella testa come palle in un campetto. Da Santa Lucia al Lazzaretto è perfetto. Ti aspetto in difesa, la palla qui è contesa. Qui si gioca per se stessi, non si gioca per la gloria. Si consumano le fine ricercando una vittoria. Sei tu contro te stesso, spesso fai tutto te stesso, sperando nel successo. Tiro dopo un tiro dentro al sesto, prendo coraggio, fotto l'uomo con un mio palmeggio. Aspetterò un passaggio, ribalterò il punteggio, che il mio basket me ne dà un assaggio. Russa, salto sotto i piedi, ogni tiro è dentro se ci credi. Penetro al canestro, non mi vedi, sfrutto ogni spazio che concedi. Il basket è fatica, il basket è sudore, il basket è il mio mondo, perché il basket è il mio amore. Il basket è il mio amore, la magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo in un altro contesto. I danni ti confermano questo, la magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo in un altro contesto. Produzioni spiedo italiano espresso. Finto un'entrata resto, oppure viro contesto esto. Un passaggio lob sul lungo e stai fresco. Se non ti aggiungo un taglio per un tiro sul fondo, se entri a testa bassa è uno sfondo. Perfetto è il nostro mondo, 4 contro 4 alla 30 fino al tramonto. Palla chi insegna, dai e ci consegna. Il campetto è solo il campo e la palla chi ti insegna. Movimenti spalle a canestro per un appoggio onesto da sotto. Se non sei fuori per la bomba del botto, oppure guarda il backdoor. Tengo a mente lo so, ma in anticipo sull'uomo il palleggio te le do. Oh oh oh, cadi sulle tinte, quante partite vinte. Non ci ricordiamo, rifacciamo 0-0 niente. La magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo di un altro contesto. Il braccio ti confermano questo, la magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo di un altro contesto. Produzioni spiedo italiano espresso. La magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo in un altro contesto. Willy Barroso ti confermano questo, la magia del campetto è questo, sei tu contro te stesso. Resti fuori dal campo in un altro contesto. Produzioni spiedo italiano espresso. We'll be right back. quindi, come promesso, passiamo a parlare delle fasi finali dei playout e degli allievi elite, partendo dalla situazione, in modo che così vi volete dare regolata, insomma, vi, se vi siete dimenticati i fatti precedenti, ve li andiamo a ricordare. Allora, per i playout, cioè per il girone A, sono state giocate le partite tra Talas Casalotti contro Rieti, finita per 2-3, e Vissa Aurelia, che pareggia in casa per 2-2 contro l'Ottavia. Mentre per il girone B, il Sora perde in casa 0-2 contro un ottimo Spezia Montesagro, mentre il Rio Ceccano si vede superare anche lui in casa da una scalinata di Cor per Conti, che si aggiudica la partita di andata per 1-2. Come sapete, e per chi non lo sappia, andiamo a ricordare, già retrocesso lo Scavri in turno. Andiamo un po' nel dettaglio nelle quattro partite. Allora, Talas Casalotti, dopo una prova generosissima, va a perdere in casa per 2-3 contro Rieti, la squadra reatina così porta a casa un ottimo risultato per la finale, la semifinale, anzi il quarto di finale di andata, superando il Talas Casalotti di una rete. Quindi si può permettere una partita molto più tranquilla di passata in casa sua. Andiamo a dare le formazioni: Talas Casalotti tra i pali Lenci, Quintini, Maffoli, Pertinelli, Di Carlo in difesa, Esposito, Ciarpaglini, Sorrentino, Perdiccioni a centrocampo, attaccanti Martino Mazza. Il Rieti si contrappone alla squadra di casa con Tomarelli in casa, Coiro sostituito da Di Matteo, Cerroni sostituito anche lui da Di Vittorio, Serva e Ranuzzi. Salvi, Gentili, De Santis e Oddi formano il quartetto di centrocampo, mentre De Angelis e Franceschini erano i due attaccanti. L'arbitro Picardi di Civitavecchia apre le marcature al 37esimo del primo tempo, Oddi per i Riatini, che subito si portano in vantaggio in questa gara. Due minuti dopo firmano il 2-0 con i Gentili, anzi lo 0-2, e così le due squadre rientrano nei spogliatoi. All'inizio del secondo tempo, al quarto, Ciarpaglini del Talas Casalotti firma l'1-2, dando così vita a una rimonta che solo due minuti dopo sembra realizzarsi con Bartim, che porta il pareggio le due squadre per il Talas Casalotti a seguito di un bel gol. A quel punto il Talas pensava di aver ripreso per tutta la partita e riuscire magari a portare a casa il risultato utile, ma al 31esimo del secondo tempo Palluzzi per il Rieti cancella tutti i sogni per il Talas Casalotti e firma il 3-2 finale per la squadra latina. Appunto, il minuto chiave di questa partita è il 31esimo della ripresa, quando dopo aver subito un incredibile rimonta, Rieti piazza la stoccata decisiva con Palluzzi, che presentandosi al tu per tu con Lenci fissa il definitivo 3-2. Sempre per quanto riguarda il girone A, abbiamo visto il Vissa Aurelia in casa pareggiare per 2-2 contro l'Ottavia. Graziosi di Roma, l'arbitro non ci ha capito assolutamente niente, ha fatto degli errori pesantissimi che hanno reso quasi ridicola questa partita. I marcatori sono stati Guadagnini per il Vissa Aurelia al 40esimo del primo tempo. Bisogna aspettare il 27esimo per il pareggio dell'Ottavia, firmato Chionne, mentre il 2-1 viene firmato al 33esimo da Orecchia e al 40esimo il definitivo 2-2 segnato da Ciuraru per l'Ottavia. Passando al girone B abbiamo il Sora che va a perdere in casa contro la Spess Montesacro, un pesantissimo 0-2, Spess che già stacca il biglietto per la semifinale. E una partita tranquilla, non ci sono state troppe dirigi o quant'altro, c'è stato giusto un doppio giallo e quindi l'espulsione di Caruso per la doppia ammonizione. I marcatori sono stati Tertugliani e Aliberti, ovviamente entrambi della Spess e Montesacro. Il Rio Ceccano anche lui perde in casa 1-2 contro il Vigor Cisterna. Nulla può fare, anche se dopo essersi portato in vantaggio al 12esimo del primo tempo sembrava una gara tutta in discesa, ma al 32esimo vediamo il pareggio del Vigor Cisterna e al 32esimo del secondo tempo un autogol porta in vantaggio sempre il Vigor, che si aggiudica quindi il quarto di finale di andata e porta a casa un ottimo risultato con un punto utile fuori casa. Come dicevamo è stato un autogol anche in questa partita a determinare la vincente, quindi come abbiamo visto anche nelle partite precedenti è stato un episodio che è andato a essere decisivo in questa partita. E ora, prima di passare il microfono a Fischiotto, per quanto riguarda ciò che concerne i giovanissimi, mandiamo un'altra traccia. Quale mandiamo? I'm forever blowing bubbles, the Cockney Rejects. Go on, let's go. We'll be right back. E ora torniamo ai nostri articoli, che adesso passiamo praticamente alla partita che c'è stata tra Tor di Quinto e Orbetevere, che è finita a 0-0. Allora, giovanissimi Elite, questi sono i playoff dei giovanissimi Elite, di cui dopo vi darò anche una situazione generale. Allora, l'articolo è firmato da Andrea Agrifoglio, un giornalista che ci ha sostituito per quanto riguarda questa partita, perché come sapete non siamo in tanti, quindi ci dobbiamo anche far dare una mano da altre persone. Ringraziamo Andrea, carissimo amico. Carissimo non direi, però va bene, lo so. Finisce a reti bianche il primo scontro che vale la finale tra le formazioni di Paolo Testa e secondo i Ceti, poi con occasioni da gol, ritmi a volte blandi ed un risultato che rispecchia appieno l'andamento della gara. I padroni di casa si sono fatti preferire soprattutto nei primi 15 minuti, poi il fulcro del gioco giallo-blu, Marino, entra pienamente nel contesto del match dando ordine ai suoi e favorendo un emergere degli ospiti, che però non porterà assolutamente a un bel niente, cioè non ci sono stati gol, la partita è rimasta a reti inviolate. Quindi adesso vi do un po' di informazioni sulla partita. Abbiamo Macaluso, infatti si è dannato l'anima, è rimasto spesso troppo solo con Blandino e a supportarlo, che ha pagato alla lunga la stanchezza per i metri percorsi, cercando di trovare il pertugio giusto nella solita ermetica difesa rosso-blu. I primi sussulti del match sono tutti marcati Tor di Quinto. Marrura lancia in verticale bombe Rattili, che sul filo del fuorigioco beffa la difesa dell'Orbetevere. Il suo tocco al volo è velutato ma sfortunato, perché la palla supera Saccucci ma tocca l'incrocio dei pali. I padroni di casa mantengono alta la pressione e sfiorano nuovamente il vantaggio ancora sullo stesso asse, quello formato dall'esterno col numero 7 e dal loro capocannoniere. Questa volta il pericolo arriva ad azione di calcio d'angolo. Dalla testa Marulla pennella in aria, Attili schiaccia ma non inquadra la porta, il ritmo della gara scende. Gli ospiti pian piano iniziano ad organizzarsi e soltanto al quarto d'ora, quindi con una distanza di circa 10 minuti dalla precedente descritta, possiamo segnalare un'altra occasione da gol. Manzoni dalla tre quarti sinistra scotella un pallone preciso dal quale Marulla impatta perfettamente al volo di collo destro fuori di un millimetro proprio. Passati altri 10 minuti arriva la prima occasione per l'Orbetevere. Ingrati come solito fare, calcia lungo dalla distanza un tiro da fermo. Falcioni è in leggerissimo ritardo e non riesce ad andare incontro alla sfera in maniera tale da rendere la sua conclusione pericolosa. La palla si perde sul fondo e il primo tempo si chiude senza altri sussulti. Il canovaccio della gara non cambia nei secondi 35 minuti, anzi le squadre si specchiano ancora di più verso questo risultato, spazi chiusi e poche azioni, di cui la prima è stata del Tor di Quinto, grosso preciso di Pagani dalla destra, Pacciardi vola con un potente colpo di testa, chiama Saccucci alla parata che salva il risultato. Il numero 1 si distende perfettamente sulla destra e manda in corner la palla. Al 18esimo Ojeda annulla un gol ai padroni di casa sul lancio dalle retrovie. Torre anticipa il portiere e manda in fondo al sacco con un tocco di mano. Il gol non arriva e la gara si spegne. Soltanto un tiro di Attili da fuori che termina sul fondo ed un contropiede sprecato da Falcioni, ultimo minuto. Lasciano immutate le distanze, finisce 0-0. In un caso identico, il risultato a Via della Pisana, l'Orbetevere andrebbe in finale. Passiamo alla situazione dei playoff. Abbiamo avuto il Savio contro il Tor di Quinto, che all'andata vince 1-0 e al ritorno anche vince per 2-0, quindi passa il Tor di Quinto. il football club vince la partita di andata contro il Nuova, la Nuova Tortenteste per 3-1, ma poi al ritorno prende altri 3 gol, quindi la Nuova Tortenteste passa. Abbiamo poi le partite che abbiamo appena raccontato, cioè il Portiquinto che pareggia 0-0 con l'Orbetevere, la Nuova Tortenteste che perde per 2-0 contro il Vigor Percorti. La gara di ritorno ci sarà il 19 maggio 2010, che sarà Orbetevere contro Portiquinto alle 17 e il Vigor Percorti contro... No, scusate, l'Orbetevere contro il Portiquinto. E poi il Vigor Percorti contro la Nuova Tortenteste, che a questo scontro si svolgerà alle 15 sempre del 19 maggio. La semifinale ci sarà poi infine al 23 maggio del 2010. Vi faremo sapere poi a che ora sarà la partita e il campo designato per questa. E ora, prima di continuare a parlare di calcio, anche perché questa settimana abbiamo solamente play-off, quindi purtroppo non abbiamo troppe informazioni da dare riguardo alle partite, se ne giocheranno poche, quindi saranno queste. E prima, quindi, come dicevamo, prima di passare ai play-out dei giovanissimi elite, volevamo ricordare gli appuntamenti qui dell'L38 Squad. Questo mercoledì, quindi dopo domani, ci sarà la serata a sostegno di laboratori, dove c'è il surf, alle 38 squat, laboratori di saponi, serigrafia, cucito e cucina, mentre due giorni dopo, venerdì sera, come dicevamo prima, ci sarà il concerto a sostegno della vostra radio preferita, Radio Vitale 38, taglie forti e che ieri. Venite tutti a correre in tanti, chiamate amici, più siete meglio stanno, in pratica, senza esagerare, e la radio ne guadagnerà in qualità, soprattutto in qualità. Qualità, vedete qui i fantastici gadget, le magliette di Radio Milano 38 serigrafate dalla nostra serigrafia e anche le spillette dai Rob One Style, che a volte è il nostro tecnico, ma oggi è stato un po' impegnato, ci ha abbandonato. Io personalmente ho visto la maglietta, per quanto riguarda il disegno vi posso assicurare che sarà una maglietta che secondo me andrà molto bene, perché il disegno è fatto bene, è un bel ruba. Speriamo di sì, non ce la diremo da soli, ma speriamo di riuscire a vendere tante, soprattutto per voi nostri ascoltatori, cercheremo di riuscire a darvi un servizio più pulito, più caruccio, più sistemato, senza frusci. Adesso mettiamo un'altra traccia, che facciamo? Che cosa volete sentire? Aspetta, che mi è appena arrivata un'email sulla nostra casella di posta elettronica, che ricordiamo passionesferica@autoproduzioni.net. mi richiedono Rap Lamento di Frankie High Energy. Ce l'abbiamo. Ok, solo per te, Daniele 85. Rap Lamento. Colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia, è importante avere le natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti, detta anche le elezioni. Caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, con ogni qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta. E il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi ti fare esercitando il suo diritto, credendo a quelle palle che lo premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina, giochi la schedina, ricordati che sei colonna del sistema. Valuta un po' prima, metto l'angolina, scegli attentamente il prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna del sistema. Valuta un po' prima, metto l'angolina, scegli attentamente il prossimo problema. Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve gradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui si appizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli intrallazzi. Si aprono le danze tra le squadre lette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle da buttare in Parlamento. Ste palle dette leggi per via del peso scarso, ha avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso, galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, da destra a sinistra, a destra e poi ritorno. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna del sistema. Valuta un po' prima, rotto l'angolina, scende attentamente il prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna del sistema. Valuta un po' prima, rotto l'angolina, scende attentamente il prossimo problema. Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole, e all'arbitro che straia un cartellino danno pure del daltonico. Bizzettere, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite e restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, si tizi che interrazza, dirigo con la mazza, un gioco in cui si ammazza chi non si sollazza. Da un bel pezzo c'è standazza, non prendetemi per pazzo se ipotizza ste compromissioni storiche, ma nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna del sistema. Valuta un po' prima, rotto l'angolina, scende attentamente il prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna del sistema. Valuta un po' prima, rotto l'angolina, scende attentamente il prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna del sistema. Valuta un po' prima, rotto l'angolina, scende attentamente il prossimo problema. Scelgo l'autoproduzione, per la mia espressione a compromessi non scendo. Scelgo l'autoproduzione, per la mia espressione a compromessi. Rieccoci qui alla nostra passione sferica. Adesso i microfoni di Radio Pirata 38, questo ricordiamolo sempre, ricordiamo anche il blog radiopirata38.noblogs.org, il nostro contatto Skype che è Radio Pirata 38 e il nostro contatto con MSN che è sempre Radio Pirata 38, @hotmail.it. Arrivati a questo punto della trasmissione vogliamo ricollegarci sul discorso affrontato già nelle precedenti puntate, appunto il discorso di un campo a 11 per il Laurentino. Rinunceremo a attaccarvi la solita pippa, ma la solita pippa. Noi ci teniamo, quindi noi ci teniamo molto, e appunto per riallacciarci al discorso, all'intervista fatta a Alfredo Tonelli, che appunto ci raccontava quanto è importante un punto di incontro per lo sport, che deve ragazzi delle strade. Vogliamo raccontarvi una storia purtroppo triste, la storia di un ragazzo che sembrava molto promettente, tutti speravano in lui, poteva forse arrivare anche in alto. Questo ragazzo si chiama Lollo. Lollo che correva felice sul campo con la palla al piede e ora è un giocatore di poker nella pisca, ha trovato nel gioco la sua dannazione, la sua perdizione. Questo per dire quanto questo ragazzo era velocissimo, aveva freccia, segnava tantissimi gol, era bravissimo. Poi il poker e altre distrazioni che adesso non stiamo qui a dire ai microfoni, perché sono cose che comunque noi Lollo lo conosciamo e gli vogliamo nonostante tutto bene, però sono cose che ci teniamo per noi, in quanto non è giusto dirle alla radio, quindi non entriamo in merito, e descriviamo solo il suo più grosso problema, che è il poker. Il poker, il gioco d'azzardo nel quale lui brucia tutto ciò che aveva guadagnato con i suoi contratti come giocatore di calcio. È stato proprio per questo motivo che purtroppo fu allontanato dai campi da gioco. Addirittura ha partecipato con la squadra del Laurentino al torneo di calcio che è stato fatto qualche anno fa. Quindi a Punta di Diamante. Punta di Diamante, un torneo che abbiamo... Che è vero, rissa. È finito poi, effettivamente rissa, però abbiamo, a cui abbiamo partecipato, a cui abbiamo dato fiducia al nostro amico Lollo che ci faceva da attaccante indescrivibile, ci ha fatto fare molti gol. Quindi purtroppo stiamo raccontando la storia di questo ragazzo che si è perso, come è triste tanti, storia, come tanti, come a tanti può succedere nel gioco del poker, che adesso con il fatto che è molto facile utilizzarlo solo tramite questi siti internet, lo pubblicizzano in televisione, riesce a risucchiare parecchi dei ragazzi che potrebbero essere, potrebbero avere una vita un po' diversa, dedicata a qualche altra cosa e non al poker, che ti succhia l'anima e ti lascia da parte anche le amicizie, la famiglia, ti porta in un vortice che, da cui è molto difficile uscire. Ma perché poi siamo andati proprio a scegliere la triste storia del povero Lollo? Perché? Perché ci è arrivata un'email da parte di un bambino che, ovviamente, essendo minorenne, non vogliamo, non dobbiamo e non faremo il nome, nella quale leggo direttamente dalla mail: ciao amici di Passione Sferica, innanzitutto volevo ringraziarvi per il lunedì sera che mi regalate, siete gli unici che mi potete, che mi date la possibilità di seguire il calcio giovanile, calcio dove io aspiro ad arrivare. Vi voglio raccontare la mia storia. Io sin da bambino vedevo sotto casa Lollo giocare al calcio splendidamente e sognavo di divenire come lui, ma ora lo vedo solo davanti al computer a giocare a poker o al pokerino in bisca, e quindi non ho più un punto di riferimento. A volte piango, sono disperato, aiutatemi voi, vostro puntini. Allora, ragazzo nostro, purtroppo Lollo, anche se è stato un astro nascente del panorama calcistico giovanile, cittadino, anche lui come tanti altri ha avuto delle falle. Tu non ti devi buttare giù, devi far tesoro degli sbagli dei tuoi miti per fare in modo di non sbagliare anche tu. Questo è un consiglio che noi diamo spassionatamente, cioè tu poi puoi fare quello che vuoi, ma da questa triste storia puoi solo apprendere lo sbaglio di una persona e quindi agire di conseguenza. Cerca di dedicarti completamente al calcio, evita queste tematiche che possono essere magari di strada, che ti portano su una strada sbagliata e ti rovinano poi per sempre la vita, perché comunque il poker è una droga, anche quella è una droga legalizzata a questo punto, perché oramai c'è la pubblicità dappertutto, abbiamo anche i famosi calciatori che sponsorizzano il gioco d'azzardo, quindi diventi. Noi l'unico consiglio che possiamo darti è prendere magari, passa il tuo tempo sotto al sole ancora appresso a un pallone e non cliccando un freddo monitor per cercare di vincere i tuoi 50 centesimi o 8 euro, che alla fine vedrai che per guadagnare 50 centesimi ti leveranno almeno 50 euro, quindi questo ti può far capire quale trappola sia il poker online, i video poker, o tutto quello che circonda questo mondo. e cercheremo di farti di continuare a occupare i tuoi lunedì sera, sentendo parlare di calcio giovanile, calcio pulito, calcio senza sponsor, calcio che ti permette di passare le tue giornate. Adesso manderemo un'altra canzone prima di passare ai saluti finali, a ricordarvi le nostre le iniziative che si svolgono qui all'L38 Squat, un posto che noi amiamo. Tracce, ricordiamo che sono state gentilmente offerte dal nostro tecnico Robertone, che sono per voi ragazzi, vi possono ricordare i vecchi videogiochi. Che potete trovare e con i quali potete giocare tutti i giorni qui alle 38 Squad con la nostra fantastica Name Station, che abbiamo costruito completamente noi, solamente con la nostra voglia di ritornare al passato. Adesso rientriamo in studio con la nostra passione sferica, diamo il vincitore del concorso che abbiamo trasmesso la settimana prossima, la vincitrice in questa la settimana passata, la vincitrice in questo caso, perché in questo caso è stata una ragazza, appassionata di calcio giovanile soprattutto, non calcio sponsorizzato, non dà importanza a queste cose. L'amica in questione si chiama Alexandra, con la Sandrina, anche detta Sandrina qui all'L38 Squad, la direttore Sandrina, e ricordiamo che lei vincerà la maglietta che troverete poi anche al concerto del 21. E passiamo adesso alle iniziative che il nostro L38 Squad ci propone. Ricordiamo di nuovo il mercoledì di questa settimana, che è per quanto riguarda il Dovetti Yourself, i laboratori del L38 Squad, che sono saponi, serigrafia e cucito. E poi per non dimenticare, ricordiamo di nuovo il nostro grandissimo concerto di cui farà parte il nostro amico Nano, che ci ha fornito delle sue tracce, e ci sarà insieme a lui il Nano Fit Jungle Beat e gli Etrusca Jazz Cover in versione scale delle più belle canzoni, appunto jazz, mentre per il Nano Fit Jungle Beat avremo il pop, rap e il freestyle. Ricordiamo anche l'appuntamento di mercoledì 26 maggio, appuntamento a cura dell'Info Shop, che presenta aggiornamenti dalla Palestina, racconti della quinta conferenza popolare sulle strategie di resistenza, molto interessante. E mentre questo mercoledì sarà a sostegno dei laboratori Do It Yourself, come diceva il nostro fischiotto, con Falafel, Free Shop e Mercatino Do It Yourself. Prima però di salutarvi vorrei un attimo, vogliamo anche ricordare le altre trasmissioni che vanno in onda su Radio Pirata 38, Secret Boys, quello di Roberto Mercola, trasmissione che parla di cinema d'autore, cinema d'essi e quant'altro. Abbiamo Pop Up The Valium condotto dal nostro amico Pop Up The Valium Mariuccio. Poi abbiamo i Cosmo Piccioni, che sono un gruppo di ragazzi che dal lunedì al mercoledì propongono delle lunghe serate con la loro musica, e abbiamo la nostra amica Valentina che conduce una trasmissione che riguarda attualità e cose del genere. Adesso mandiamo i nostri saluti per questa settimana. Prima, scusa Fischio, prima di salutare tutti volevo fare un saluto a Ronnie James Dio, il cantante dei Black Sabbath, che ieri ci ha lasciato. Non mi voglio dilungare con frasi già detti da chissà quanta altra gente, niente, solo questo. Ti ricorderemo sempre con quelle corna alzate. Ciao Ronnie James, salutaci Dio. Allora, ritorniamo a noi, vi salutiamo, per quello che dicevo prima, non questa settimana non faremo il solito concorso, anche perché siamo molto impegnati col concerto, quindi un saluto a tutti quanti e risentirci prossimo lunedì. Un saluto da Fischiotto, un saluto da Mugna, un saluto a tutti quanti.